L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono 2 giorni che in ospedale mi tocca pomeriggio. Oggi salvo urgenze dovrei aver finito. Per tutti quelli della provincia di Macerata, non fate che vi prenda un infarto durante la zanzara. Solo dopo le 21, per piacere. Buon medico questo qua, Buon medico, buon medico. Se dalla provincia di Macerata avete un'urgenza medica, non lo so, un infarto, un qualcosa di grave, non chiamate questo, che presumibilmente è un infermiere, un medico del pronto soccorso, non lo chiamate, solo dopo le 21 chiamate. È molto grave. Cioè andrebbe incriminato secondo te? Andrebbe fatta un'ispezione della ASL locale del maceratese. Bravo, esatto, sì, subito. Ogni tanto ci sono delle ottime notizie che circolano, caro Parenzo. Per esempio, una notizia che viene dalla provincia di Roma. Anziano sparò al ladro romeno, ferendolo. Viene assolto, fu legittima difesa. Tutto questo dopo un anno di arresti domiciliari, dopo che l'azienda di questo signore, ultra settantenne, un'azienda agricola, se l'è passata molto molto male. Beh, e adesso anche per colpa di questa cosa. Anche per colpa di questa cosa. E adesso chi lo risarcisce questo signore? Chi gli dà i soldi indietro? Faranno una causa contro lo Stato per ingiusta detenzione. Certo, risarcimento e ingiusta detenzione, chiaro. Ho capito, è chiaro il cazzo. Io però adesso ho un problema molto grave. Che è successo? No, perciò mi si è raffreddato il tè caldo al limone per biscotti. Beh, questo è buono. Che vuoi fare? Vuoi metterlo dentro il forno a microonde? No, forno a microonde non si cade mai. No, mi si è raffreddato il tè, purtroppo. Sì, perché tu hai fatto a quest'ora il tè con i biscotti in campagna, nella tua lussuosa residenza di campagna. No, non è lussuoso, è lussuoso. E mi si è anche spento il caminetto. Beh, amici miei. E tocca andare a prendere la legna fuori. Sono i weekend lunghi del dottore Parenzo. No, i weekend lunghi. Scusami, qualunque persona al mondo, se è in vacanza, si riposa, però è bene del tè, non mi pare. Oliviero Toscani con Lucci, non ho votato, ero a mangiare il tartufo, bellissimo. E volevi votare sì, perché non sei riuscito a votare sì? Perché ero via, non sono riuscito, giuro, proprio in questione... Stavi con una bocconiana? Ero a mangiare il tartufo, certo, è importante. Ma è più importante andare a votare perché... Ma no, ma figurati, fra la trifola e votare, scusa, lei ha cominciato... Vabbè, la trifola te la puoi mangiare pure il giorno dopo, però, no? Sì, però sul posto non è male. Però, ragazzi, la realtà è che oggi abbiamo assistito al primo giorno della sfilata degli orrori. La sfilata degli orrori davanti a Mattarella. Sono iniziate le consultazioni. Mentre ci si interroga, ci sarà un Renzi bis? Ci sarà un governo Gentiloni? Ci sarà un governo Padoan? Quanto durerà il prossimo governo? 6 mesi fino all'estate? Qualcuno dice non si potrà andare a votare prima dell'estate. Tutte cose che sapete. Leggetevi i siti per queste cose. Non serviamo noi per queste cose. È inutile che ci chiedete lumi. Noi non serviamo per questo. Serviamo ad altro qui alla Zanzara. Non per dirvi le ultime, come vorrebbe Parenzo, le ultime sulla sulla formazione del governo. No, vorrei dare degli aggiornamenti. Leggetevi anche degli strumenti. Ma non è nessuno strumento. Questa qua è una trasmissione in cui non c'è nessuno strumento da offrire. Nessuno strumento da offrire. No, ma per capire la crisi, per dipanarsi nella crisi. No, fermi crisi. Tutti. La sfilata degli orrori. Capi e capetti di movimenti e partiti inesistenti. Davanti a Mattarella, una sfilata che ci fa vergognare, secondo me, davanti al mondo. Dovrebbero scrivere tonnellate di inchiostro su questa roba qui, pigliarci per il culo in eterno. Amico mio, il Senato lo volevano abolire, però hanno bocciato la riforma. Ma no, ma quindi... lascia perdere il Senato qui anche... Beh, no, ma anche quello è moltiplicarsi, allora, no, dei faccio... partiti, vecchio mio. Ti faccio sentire alcune cose. Ti faccio sentire solo alcune cose, così c'è un tizio della Sud Tirol, del Volkspartei, che darà un contributo fondamentale, devo dire, alla formazione del nuovo governo, beh certo, il quale parla in tedesco davanti alle telecamere, parla in tedesco, sono diventato pazzo, ma come tedesco? Beh sì, perché dice si rivolge alla minoranza, no, esci dal Quirinale, parli davanti agli italiani, poi a casa tua, a Bolzano, parli in quella minchia di tedesco di merda, ma non puoi, cioè non puoi parlare in tedesco davanti al Quirinale, parli in italiano, non in queste cose mi fanno impazzire. Permettete, siccome la nostra lingua, siamo bilingue, dass ich auch ein paar Worte in Deutsch sage. Wir haben uns mit dem Staatspräsident Mattarella getroffen und haben unterstrichen. Sembra, no, ma scusami, una specie di Ribbentrop. Fammi dire una cosa a questo signore: vada a fare le consultazioni dalla Merkel, ma cosa ci fa qua? Esatto, noi? Scusa, ma scusa, ma poi vai a dire le cose al tuo elettorato dove ti pare, in tedesco. No, ma io capisco che lui è bilingue, ma deve parlare in italiano, perché sta al Senato della Repubblica Italiana, altrimenti vada dalla Merkel. No, è al Quirinale. Vada dalla Merkel. Al Quirinale, non al Senato, al Quirinale. Stava... scende lì davanti agli italiani e parla in tedesco, che ci saranno quattro italiani che conoscono il tedesco. Ma dai, ma secondo me si è sbagliato, deve andare al Bundestag. Una roba pazzesca, dai, su, una roba incredibile. Senti quest'altro signore che si chiama Portas, che è anche una persona intelligente, cioè... No, bravissimo, Portas è ottimo, un sardo molto simpatico. Sì, è un sardo che credo residente in Piemonte, sempre della serie La sfilata degli orrori. No, lui è molto simpatico, no, davvero. Mio, tu lo sai che cosa è diventato? Una specie di portavoce, poi è una diramazione del PD in realtà, Movimento Partito Pensiero e Azione, è lui. Sì, sì, lo conosco benissimo, è un personaggio simpaticissimo. La moderazione. Ma è simpaticissimo, sì, Portas. Ho capito, sarà simpatico, quello che vuoi, ma uno scende dal Quirinale... No, l'ho incontrato in treno tempo fa, è una persona di una cultura e di una simpatia. La modera... sì, aspetta. Portas va difeso. La moderazione aiuta. Hai ragione. Ma no, c'è da risolvere la moderazione. Senti, vabbè, sentiamo. Abbiamo innanzitutto ringraziato il Presidente per la solerzia e tempestività con cui è intervenuto in questa crisi, rinnovandogli la fiducia dei moderati di Portas, Formisano, Davico e di tanti altri. E gli abbiamo fatto presente che un po' di moderazione in politica probabilmente aiuta a risolvere le questioni. In realtà mi sembra che non è Portas, perché ha citato Portas, comunque di questo pensiero, partito, pensiero e azione. Pensiero e azione. Ah, guarda, sulla vicenda di quello della Sud-Tirol. No, ma senti questo, ti prego, senti questo, ti prego, perché... Mi ha scritto anche l'ottimo Latta, che dice su questo hai ragione, lo dico da altro tesino. Giovanni Monchiero, c'è un tizio che si chiama Giovanni Monchiero di Civici e Innovatori. Io manco sapevo l'esistenza di alcune sigle. Civici e Innovatori, legge elettorale... deve essere fatta dal Parlamento. Amico mio, grazie al cazzo, ma da chi vuoi che venga fatta la legge elettorale? Ma io divento pazzo. Tu ti rendi conto che uno spende ore e ore a sentire questi che sfilano, poi scendono davanti ai microfoni e dicono la legge elettorale deve essere fatta dal Parlamento. Allora, noi pensavamo che fosse fatta dallo Spirito Santo. Dai. Civici Innovatore ha rappresentato al Presidente una serie di considerazioni che vi riassumo. Innanzitutto anche noi crediamo che non si possa andare al voto con una legge elettorale qualsiasi, ma che sia indispensabile che la legge elettorale sia frutto di un intervento del Parlamento. Signor Monchiero, amici miei, guarda, vado ai c'era anche Buttiglione. La massima di Buttiglione, non lo so a rappresentare che cosa, bisogna giocare dove il signore ti mette. Bah. Paradossalmente è sopravvissuto anche a Renzi, Buttiglione. Bisogna giocare dove il signore ti mette. C'è bisogno di tornare alla cultura democratico-cristiana della mediazione, dell'ascolto paziente delle ragioni di tutti. Dell'ascolto paziente delle ragioni di tutti. Bellissimo, ma la cosa meravigliosa, bellissimo. Bisognerebbe farlo anche introdurlo, sì, però, anche alla radio. Però un guarda ragazzi, paziente. No, mettetemi Benson, ti prego. L'unica reazione possibile di fronte a queste cose qua è Benson. Sì. È Benson. Non avete capito un cazzo! Non avete capito! veramente dicevo la vergogna, però guarda. Signor De Luca, ecco, da queste cose vedi il passo in più. Cioè, vedi la differenza, signor De Luca. Cioè, la differenza del leader, del governatore del mondo, guarda, che di fronte a questa cosa non è che ha l'atteggiamento di Parenzo, no, ma le istituzioni, bisogna rispettarle, eccetera, eccetera. No, senti che dice il signor De Luca. Il capo dello Stato ha avviato le consultazioni e siamo messi di fronte a quella che è una liturgia che, dal mio punto di vista, sarebbe bene eliminare nel nostro paese. Pensate. Forse finisce per Natale, senti. Il capo dello Stato deve ricevere per le consultazioni 16 delegazioni. Quindi ha cominciato ieri, proseguirà ad oltranza, vediamo se arriva a Natale, ma insomma. Poi se la piglia col programma di Grillo dei 5 Stelle che è stato spiegato da Di Battista, senti. Grillo ci ha comunicato che 5 Stelle si preparano a elaborare il programma di governo. Finalmente una buona notizia, nel senso che sapremo una buona volta per tutte che diavolo hanno in testa di fare. E questa, credo, sarà una cosa che ci offrirà motivo di consolazione. Le ultime parole, sempre belle, mi sono venute da Grillo. Ha detto Grillo che bisogna cambiare il nostro sistema di pensiero, cominciare ad abituarsi all'idea che il lavoro manuale lo fanno sempre di più i robot e che noi ci dedichiamo sempre di più alla vita, ai rapporti umani, alle relazioni personali e, perché no, anche al tempo libero. Questa per me è una bellissima prospettiva dal punto di vista poetico, estetico. Potremmo intitolare una legge del genere Tutti a Maligni. È il numero uno. Grillo dice che bisogna lavorare meno, che è una vecchia battaglia di 5 Stelle. Una legge Tutti a Maligni. Governatore, governa del mondo. Ed ora traffico. La Zanzara. Cruciani, siamo in viaggio verso il Trentino e abbiamo fatto un CD con 3 canzoni: Mai dire mai del Divino Telma, la sigla di Radio Padania e I Nani. Siamo al toppissimo. Allora ragazzi, Sgarbone scatenato oggi, credo, a Sky. Ha attaccato pesantemente, sai, Sgarbi è convinto che Renzi ha preso il 40% e ha praticamente vinto il referendum, una teoria piuttosto bislacca, perché quel 40% non è... Lui ha detto che quel 40% è attribuibile molto a Renzi. Non è così. Comunque lui dice che Renzi ha più voti degli altri, è l'unico che ha dei voti, mentre nel fronte del no sono tutti separati. Però... Beh, è vero che non li puoi sommare. E questo fa parte del futuro, intanto secondo me alla fine lo stanno rosolando e se lo inchiappetteranno all'interno. No, ma questo è sicuro, ma è vero che il fronte del no non puoi sommare i voti di con i voti di Salvini. Senti come di se Salvini la prende... a quelli di Grillo. Non senti come se la prende con la Ronzulli. Ronzulli Forza Italia, ex deputato europeo. Senti. Mi pare ingeneroso. Guarda, preferisco non parlare. No, però la telefonata ce la devi raccontare. Anche quella, perché se tu non puoi capire, se uso la logica, invece questa tira fuori la sua politica. Ma che cazzo dici? Cosa stai dicendo? Era solo contro tutti. Allora, vabbè, ma perché devo fare? Non si può mettere le logiche al corone che borbotta i suoi rumors senza lasciar finire il discorso. Facciamo finire Sgarbi un attimo, poi vengo da lei. Come poi non facciamo tutte le opinioni sulla violenza verbale. Io ho fatto un libro importante, non voglio sentire la Renzulli, non me ne frega un cazzo dell'opinione di una che non sa nulla e che parla soltanto per fare politica. O si fa, capisci? Mi stai sul cazzo con le cose che dici. Molti italiani pensano, allora è vero, il voto non è stato contro Renzi, no, è stato un voto turistico. No. È tutto di Renzi. Ma non urlare, urlo perché non fai il cazzo dicendo delle stupidaggini. Vittorio, non no, è che se ti scaldi è più ragione di me. Non sono interessato a parlare con te. Non ti ritengo un interlocutore degno di parlare con te. Torniamo in un clima sereno. Onorevole Ronzulli, sgarbi, cambiamo su un attimo. Voglio parlare con me, non mi voglio chiarire. Da più è Francesco che parla. Allora, non era un voto su Renzi, era un voto su Renzi. Francesco, che succede lì? Sarò una cretina come dici tu, ma tu sei tendenzio... un gran maleducato. Io sono maleducato e tu sei cretina. Preferisco essere maleducato non mi interessa. Va bene, mi prendo della Francesco Ferrante. Non era un voto contro Renzi, era un voto turistico. La gente passava di lì e votava pro contro Renzi a caso. Preferisco essere maleducato che cretino. Questo è un bel manifesto, però, eh. Preferisco essere maleducato che cretino. Preferisco essere maleducato piuttosto che cretino. Non si tratta così una signora. Ma che c'entra la signora? L'ha trattata perché pensa che sia una cretina, appunto. Gliel'ha detto in faccia. Che bene al carbone, ma gliel'ha detto in faccia che secondo me è una cretina, che secondo lui è una cretina. Ma non si tratta così, è una signora, va usato comunque il garbo, va usato. No, ho capito, lo garbo o lo sgarbo. No, secondo me va usato il garbo, non lo sgarbo nei confronti delle signore, però. Senti, ma Lucci con D'Alema, stupendo. Senti, Lucci con D'Alema. Stai godendo come un toro nella stalla? No. Ma di la verità, Massimetta, Enrico, io dentro. Non si gode per una sconfitta che comunque riguarda il tuo partito, quindi... Vedi l'ipocrisia, non si gode per una sconfitta che riguarda il tuo partito. Hai fatto campagna contro il tuo segretario, stai godendo come un riccio. Lino Catanzaro, vai, apriamo le gabbie. Le stalle. Posso parlare? Sì, Lino, dimmi. Perché mi fa incazzare già in partenza. Intanto buonasera Italia, buonasera Parenzo. Buonasera Italia, buonasera. Ma comunque vabbè, dai, dimmi. No, perché non va bene dire buonasera Italia. Fino adesso hai fatto una radio discreta. Quando cominci a parlare di culi e di altre cose che non riguardano le persone civili educate, va bene, hai fatto una buona radio. Mi hai fatto aspettare 25 minuti per dirti che la democrazia tu non la conosci. È arrivato il Papa. No, non sono arrivato. Il professore, l'educatore, quello delle buone maniere, Lino. Lino da Catanzara, dai. Giuseppe, ascolta un attimo. Se Parenzo ti fa il compare o il gioco delle due carte, il compare, e sta bene anche questo gioco delle parti. Ma che vuoi? Però... Ma perché hai chiamato, Lino? Non ho capito. Perché hai chiamato? Come perché ho chiamato? Perché? Per quale motivo? Il motivo che... come? Non te l'ha detto la No, non ci hanno detto niente. Noi andiamo senza filtri, vai. Ti passo così in diretta. E allora? Quindi, vai. Allora, il problema è questo, della libertà che tu hai e che il resto d'Italia non ha. Ecco, allora ti rode il culo chi abbia questo. Ti rode il culo perché a me il culo me lo fanno in Calabria sulla libertà di stampa. Vabbè, amico mio, questo dipende. 21, ma tu altro se c'hai i coglioni, questo. Dipende se hai i coglioni, evidentemente non hai i coglioni. Che, ma stai scherzando? Evidentemente non hai i coglioni. Evidentemente non hai i coglioni. Non hai i coglioni. In Calabria faccio un'informazione libera. Vabbè, ma scusa, Lino, con tutto il rispetto, ma chi se ne frega? Cioè, ma adesso di cosa stai parlando? Tiro del culo chi abbia. Parenzo, scusa, voglio chiederti, e lo dico sì. In maniera molto tranquilla. Gentilmente, puoi avvisare l'emissione di non abbassarmi l'audio? Quando parlo. Ma chi ti sta abbassando l'audio? Nessuno ti sta abbassando. Ti spiego, perché l'altra volta. L'emissione, quando ho ascoltato, perché io ti ho chiamato e già ti ho detto questa cosa. La tua voce. Ma cos'è che ti dà fastidio? Cos'è che ti dà fastidio? Mi sembra di buon senso, sto signore. Grazie Parenzo. Di buon senso, Lino da una persona di buon senso. Lino da silenziosa che ogni tanto alza la voce, bravo. Lino da Catanzaro di buon senso dice che faccio una radio vergognosa. Beh, dice che parlo. Hai ragione. Ma va, si parla di culi e di tette, ma che dici, Giuseppe, Lino? Dai. Io, no, scusa Giuseppe, per radio vergognosa intendo. E te l'ho detto, se c'è un bambino in macchina che ascolta la radio. Spegni la radio. Ma scusa, ma perché io devo avere? Io tu dici una cosa all'inizio. Beh, tu puoi dire quello che vuoi, però è normale, se tu l'ascolto ce l'hai è perché c'è interesse in quello che dici. E le persone stupide che dicono che non ti ascoltano, dicono il falso, ma sono lì sintonizzate alla radio. E allora io dico, se tu fai una buona radio, una radio di denuncia, una radio che può essere interessante per l'opinione pubblica, io l'accetto. Professor, e non ci rompe i coglioni alle 18.55. Va, Lino, se hai qualcosa di sensato ti chiamo dopo, altrimenti non ci rompe i coglioni, no? Ciao. E questa è una vergogna! È una vergogna! Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. Nino da Catanzaro hai rotto i coglioni, Nino da Catanzaro hai rotto i coglioni, porca puttana. Allora la Zanzara può fare cose che la tua radiola di merda non può fare, quindi non rompere i coglioni, basta, le ingiustizie esistono, caro mio, esistono, e questa è una vergogna, è una vergogna! Parenzo, sono appena rientrato in macchina e gli zingari me l'hanno aperta. Porca puttana. Adesso come fai a sapere che sono gli zingari, no? Cioè, non è che per forza gli zingari devono essere, dai. Dunque, voglio darti un aggiornamento, se è possibile. Dimmi, che succede? Allora, prima si era freddato il tè, lo sai. Adesso loro ho deciso di convertire questa fase in questa fase di trasmissione. Sì. Quindi mi sono preso un piccolo bicchiere, non dirò di quale marca, ovviamente, di vino rosso, buono, sì, non profumato. Oltre però, i 20 euro a bottiglia siamo, naturalmente, no? Una bottiglietta di vino rosso del Chianti, non dirò la casa che l'ha prodotto. Del Chianti Doc, sì, Gallo poi... Nero, non mente mai. Il fuoco, per fortuna, ha ripreso a scoppiettare. Sì. Dunque tu sei di fronte, praticamente sei di fronte al fuoco con un bicchiere di vino rosso, sì, abbastanza pregiato, del Chianti, sì, intorno silenzio. Intorno è una buona cantina. E adesso ho trovato un sigaro buono, toscano, non aromatizzato, di quelli che piacciono a te. Sì, sì. E adesso mi smezzo mezzo sigaro con il sapore, è proprio il sapore dell'inverno. Cioè il sapore dell'inverno è dato da questo vino... Sì. Non troppo profumato, no, il certo. E sono pronto in culo, ad affrontare... in culo ai proletari, in culo no, agli operai, in culo agli abitanti dei quartieri complicati, dei quartieri no, dove piazzano gli immigrati, soprattutto per affrontare i miserabili che chiameranno e continueranno. No, poi la cosa curiosa è una sola, che come mai gli immigrati li piazzano sempre in quartieri, come dire, più sensibili? Perché non li piazzano in alcuni quartieri bene? No, io sarei per metterli ai Parioli, ad esempio. Ma dai, su, io dai. Sarei che se fossero spalmati su tutto il territorio, non si creerebbero queste enclave. Ad esempio, ai Parioli bisognerebbe destinare alcune casette. Comunque, alcune ragazzi, case. La cosa è molto semplice. Più di un italiano su due afferma: troppi stranieri, non mi sento più a casa mia. Vabbè. Siamo i primi in Europa per ostilità verso gli immigrati. E secondo l'Unione Europea è irregolare l'80% di chi arriva in Italia. Sì, l'80%. Però di questo bisogna ringraziare dalla vostra parte. No, vabbè, adesso che Poletti. Una parte delle persone che telefonano alla Zanzara. A proposito, allora, il comune di Roma ha trovato un alloggio alla famiglia marocchina cacciata da San Basilio. Meno male. Che non è a San Basilio, cioè ha trovato un'altra casa popolare. Secondo me è un errore madornale. No, ma cioè... ripeti che erano persone che avevano diritto. Sì, però. Sì, l'abbiamo detto. Allora, no, ripeti, aspetta, la cosa fondamentale è un'altra, però. Sì. Se passa questo principio, cioè il principio secondo il quale basta una rivolta all'interno di un palazzo per impedire ad una famiglia di andare lì, e uno può dire anche, che ne so, che è giusto così, allora ragazzi fate tutti così. Appena vedete arrivare nelle case popolari una famiglia di marocchini, tunisini, algerini, romeni, non so che cosa, scendete in piazza, affrontate duramente questa famiglia, mettetevi lì come un cordone e impedite a questa famiglia di entrare. Se è così facile mandarla via, il sindaco di Roma fa un errore fondamentale, doveva imporre la presenza di questa famiglia, sì, anche se la famiglia non voleva, altrimenti di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, se bastano quattro scalzacani che scendono in piazza e impediscono alla famiglia di entrare in un palazzo, sì, bravo, magari hanno tutte le ragioni del mondo, questa qua, non lo so. Cioè, però ha fatto bene la sindaca. Ma vabbè, ma a trovare un alloggio, ma te credo. Cioè, ma a in realtà stare da un'altra parte, perché anche la famiglia non si sarebbe sentita ma sicura. Cosa lì vuol dire? Ma allora a questo punto tutto è possibile. Dai, la rivolta degli abusivi contro uno che non è abusivo, anche se poi si può discutere sulle graduatorie, sulle famose graduatorie. Comunque, ragazzi, la storia di San Basilio non finisce qui. Gasparri dice la graduatoria con priorità a chi vive qui da 20 anni. Le leggi razziali, praticamente. Ma no, ma che leggi razziali, dai, su. Beh, non dire una forma. Ma no, lui dice se vivi qui da 20 anni devi essere più alto nelle graduatorie. Mi sembra anche abbastanza normale, dai. Allora, qui noi abbiamo un problema, in cui dovremmo mettere nelle graduatorie una priorità alle persone che risiedono qui in questa nostra terra da 15, 10 o 20 anni. La famiglia Morea è quella che ha cacciato, tra quelle che sono scese in piazza per cacciare i marocchini. Senti uno dei componenti, Sara Morea. Mio padre ha fatto più di 25 anni fa una domanda a casa popolare e questa famiglia è in Italia da solo 5 anni e gli hanno assegnato la casa. Mi spiegate perché loro sì e noi no? Anche noi abbiamo diritto a una casa. Non venite ma a parlare di razzismo, perché qui non si tratta di razzismo, ma una guerra tra poveri. Intanto dal Veneto aiutano solo quei negri lì. Aiutano solo quei negri lì. Aiutano solo quei negri lì. Gli danno tutto. Gli pagano l'affitto, gli danno a mangiare gratis, gli danno tutto. E noi che siamo italiani, che c'è gente che muore di fame. Adesso che abbiamo la festa della polenta, la fiera del riso, tocca fare la sagra del couscous, far pungolo, che a me non me va mia. Mi maio gambetti e recce de porco e non me fa mia mancare quel che sono abituato a maiare. Non faremo, questa è la traduzione, Parenzo, mi sembra, non faremo la sagra del couscous, dicono questi signori veneti. Questi signori veneti che hanno deciso l'altro giorno una delle più grandi follie del secolo, solamente per cercare di ottenere, ma ancora la cosa non è chiara, dei vantaggi fiscali. Bravo. Cioè il bilinguismo veneto come minoranza linguistica, ma ragazzi, ma a parte che il Veneto non esiste, la lingua veneta non esiste, esistono i dialetti locali, il padovano, il vicentino, il veronese. Non ci rompete i coglioni. Il Veneto non esiste. No, ma soprattutto i veneti politici, ma questi sono quelli della Lega che hanno proposto sta cazzata, dovrebbero esigere che nelle scuole venga insegnato il cinese e l'arabo, invece. Questo dovrebbero fare. Cioè dovrebbero chiedere nella scuola pubblica l'insegnamento del cinese e dell'arabo. Queste sono le lingue del futuro. Senti questo dal Veneto, sputate in faccia a chi ospite i rifugiati. Ma chi qua dovete sapere che all'hotel Tal dei Tali parlano dei finti rifugiati? Quando dovete sapere che un vostro concittadino con 10 appartamenti decide di destinare 5 ai rifugiati per fare i soldi? Sputatemi in faccia. Allora ragazzi, ma quello da Catanzaro c'è ancora, non avete più chiamato? Chiamatemelo dai, forza. Enzo, provincia di Ancona, vai Enzo. Enzo, dimmi. Cruciani, buonasera. Dimmi. Allora, beh, intanto bravo. Dai, basta con queste cose, vai. Sentire, mi è piaciuto molto quella sul tedesco di oggi. C'è uno pagato dai contribuenti italiani che viene nel Parlamento rosso. Tu sei in viva voce, amico mio, hai il viva voce oppure l'auricolare, dai. No, forza. No, non ho niente. Amico mio, non sento un cazzo, sento come un rimbombo, dai, forza. Un rimbombo. E sono in una zona che non ce ne ha. Vabbè, Beniamino da Milano, dai, forza. Sì, pronto, buonasera. Ecco, bella la voce viva, che si sente bene alla radio, che squilla fortemente. Sono un assiduo ascoltatore, per quello che vai, Beniamino, dimmi. Allora, per farla breve, nella contrapposizione tra la cretina e il maleducato, cioè Sgarbi, sì. Non è mica quella la contrapposizione. La vera contrapposizione è tra una cretina e uno che è sia maleducato che cretino. E te lo spiego in due parole. Ma che c'entra adesso? Devi attaccare Sgarbi su questo? No, c'entra, perché lui è già tre giorni che la mena con questa storia. Renzi prenderebbe il 40%, è verissimo, sì. In una ipotetica consultazione elettorale, è verissimo, ma in cui ci siano soltanto due partiti, uno che si chiama Partito Pro Renzi e l'altro che si chiama Partito Contro Renzi. Cosa che non esiste, cosa che non esiste secondo te, certo. Ma no, è ma, chiaro, ma è su questo hai ragione, infatti io l'ho contestato anch'io, ma virtuale, magari dopo lo chiamiamo, ma il problema fondamentale è proprio questo, cioè chi ha votato sì, non è tutto di Renzi, il 40%, c'è un sacco di gente che io conosco che non voterebbe mai Renzi alle elezioni, certo, ha votato sì lo stesso. Ma male il ragionamento anche contrario, cioè che quella percentuale del 60% che vabbè, ma quello sì, ma quello si sa, dai, quello e si sa. Lì ci sono anch'io, in quelli ci sono anch'io. E chiaramente se dovessimo andare alle elezioni politiche mica voto la destra, hai visto? Che ne so, è chiaro. Va bene, ho capito tutto. Ciao Cruciani, ti ringrazio per non essere contro la caccia. Beh, amico mio, è dovere, amico mio. Lino, quello di prima da Catanzaro, vai. Buonasera. Allora, Lino, dimmi. Mi avete chiuso, mi avete richiamato, capisco che c'è il TG, però mi avete stroncato completamente. Lino, però devo sentirti bene perché tu hai delle argomentazioni forti, delle cose forti da dire. Gli ascoltatori ti hanno anche, alcuni ascoltatori ti hanno anche insultato. Tu potresti fare il nostro inviato in Calabria, sarebbe stupendo. Assolutamente non ci sono problemi. Qualunque cosa volete. Devi andare a rompere i coglioni là in Calabria Saudita, capito? Devi andare a rompere i coglioni. Siamo al 44% con la soglia di povertà, siamo in un baratro, stiamo morendo. Tu sai che oggi è arrivato un giapponese. Ti racconto questa perché mi ha sì, ma raccontamela bene, però, che non sento bene. Mettiti bene col microfono accanto. Okay, dai. Mi senti? Sì, ti sento, vai. Bene. Oggi mi hanno chiamato perché è arrivato un giapponese. Sì. In pratica, ancora i quotidiani in Giappone hanno una tiratura che va da 7 a 8 milioni di copie contro le poche tirature che abbiamo in Calabria o in Italia in generale. Bene, è arrivato questo giapponese perché voleva andare nella città più povera d'Europa. Sai qual è la città più qual povera è? D'Europa? Qual è? È Crotone. E Crotone abbiamo... Beh, amico mio, però non è che è tutta colpa degli altri, eh? Cioè, no, dai, è dai. È colpa della politica. Ma che colpa della politica? Pure voi ci mettete del vostro lì in Calabria, ma dai. Ma che cazzo stai dicendo? Ma dai, su, anche voi, ma su. La Calabria è un posto super sovvenzionato, avete ricevuto un sacco di soldi e l'avete buttati, come al solito, dai. È vero. Dai, ma non per la politica. Noi l'abbiamo denunciati chi ha derubato. Ma tu la magari li avrei denunciati, ma i tuoi amici calabresi no, dai. Ndrangheta, sprechi, la forestale, la gente... quanti forestali ci sono in Calabria? Quanti forestali ci sono? Sono contro questo sistema, devi sapere che hanno messo un generale dell'arma dei carabinieri per farli arrestare coloro che hanno derubato questo territorio, ed è il generale Parigiò, quindi c'è una guerra in atto in questo territorio. Vabbè, Lino, presentaci sempre storie, tu chiamaci di continuo. Così storie? Facciamo incazzare qualcuno. Ma va bene, allora io adesso ti racconto delle situazioni, no, però tu mi devi... Non me ne frega niente. Mi devi dire, tu mi devi dire come fai, hai una forma quasi mafiosa della comunicazione. Tu sei il boss della comunicazione. Parenzo è il boss della comunicazione, non mi sembra. Perché? No, Parenzo, Giuseppe. Ah, io? Ma no. Giuseppe. Ma vaffanculo, ma sarai tu un mafioso. Abiti in Calabria, dai, ma su. Guarda, tu hai fatto già una situazione gravissima e legata a un paese dove l'ha fatta l'amico conduttore di Rai 2 che ha detto che è un paese... Amico mio, allora tu devi dire forte, l'Andrangheta è una merda, dillo, l'Andrangheta fa schifo, è una merda. L'Andrangheta è una merda coloro che fanno usura alle imprese, è una merda, l'Andrangheta è il sistema, noi abbiamo l'organizzazione criminale più potente al mondo, è facile venire a fare informazione in Calabria scortati dai carabinieri. L'Andrangheta sta uccidendo e tiene sotto banco la gente. Bene, ciao Lino. Ma quello che parla in tedesco lo paghiamo 15.000 euro al mese per non capire un cazzo tutto il giorno? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... A Natale fai battere il cuore, regala Stroili, 40% di sconto su gioielli in oro e diamanti. La Zanzara. Thank you. Divido la stanza con questo qua ogni tanto da quanto? 10 anni? Non è stata una passeggiata nel parco, è stata una condanna. Una condanna a 10 anni. Quest'uomo è un incubo per qualunque persona. Si mette le stesse mutande per 3 giorni di seguito. Non si preoccupa del suo aspetto né delle semplici piacevolezze della vita. Vogliamo parlare di asciugamani? Nicky, questo non può stare in un albergo senza usare tutti gli asciugamani. Parlo di quelli per la faccia, di quelli per il bagno, del tappetino, delle salviettine, come se vivesse da solo. Vi serve un asciugamani? Sapete dov'è? In una pila umida sul pavimento. Nicky, una volta piacere. Torno in camera e questo sta pisciando nel lavandino. Non ho mai pisciato nel lavandino. Proprio nel lavandino, proprio nel cazzo di lavandino. Ti dico, Tony, che cavolo ti hai preso? C'è una tazza che sta là? Risponde, questo è più vicino. Ecco con chi ho a che fare. Quest'uomo non è adatto alle relazioni sociali. Frankie non ci deve avere a che fare. Gaudio nemmeno. Io ci ho dovuto avere a che fare 10 anni! Questo, Parenzo, è un pezzo geniale. Il protagonista potrei essere tranquillamente io. E tu, infatti. È di Jersey Boys, così mi hanno segnalato. Jersey Boys. Comunque ragazzi, voi non avete capito, voi che state ascoltando, non avete capito. Non avete capito un cazzo! Non avete capito un cazzo! Comunque, viste le delegazioni che sono andate al Quirinale, caro Parenzo, non capisco perché non hanno chiamato anche la delegazione della Zanzara. No, ma certo, avremmo avuto un sacco di cose da dire. Certo, noi abbiamo due posizioni diverse, come sempre, quindi tu... Appunto, ma cosa... non capisco perché, scusa, se devono sentire, che ne so, una parlamentare che viene dal Brasile e metà del tempo sta in Brasile e non in Italia, se devono sentire un signore che si chiama Pisicchio, un signore che si chiama non so come, di un gruppo sconosciuto, gente che non sa niente di questo paese, soprattutto non vive la realtà di questo paese come la viviamo noi. Era meglio se chiamavano la delegazione della Zanzara. Avremmo esposto al signor Mattarella quali sono le prospettive, ecco, per il futuro. Ma avresti detto da Mattarella, ad esempio. Signor Mattarella, che non ci vuole un governo, caro presidente Mattarella, non ci vuole un governo di 10 mesi. Basta il governo che c'è adesso. Anche altri paesi sono stati senza governo per anni e sono stati benissimo. Belgio, Spagna, eccetera. Governo dimissionario e poi il Parlamento farà legge elettorale in tempi brevissimi se ci riesce, altrimenti si sciolgono le camere e si va a votare con la legge così com'è. Sì, su questo sono d'accordo. Basta. Con te, quindi non ci vuole. Avrei semplicemente aggiunto che rispetto le istituzioni, che ringrazio il capo dello Stato per il lavoro attento. Vabbè, questo che c'entra? Questo no, che c'entra. Le solite parolai inutili, le solite cose appunto, inutili. Appunto, dicono, appunto. Ragazzi, non c'è bisogno, tutti quanti, chi sarà il prossimo? Non c'è bisogno. Stati paesi senza governo per anni e sono andati avanti lo stesso. Bisogna andare a votare anche col governo dimissionario, chi se ne frega, sbrighi gli affari correnti e poi si mettono d'accordo se vogliono su uno straccio di legge elettorale, senza rompere troppi coglioni. Mamma mia, oh. Stefano da Varese, vai Stefano. Ciao, buonasera, Stefano. Ciao a tutti. Allora, parto da un presupposto: la Zanzara è una trasmissione che mi piace tanto e non mi reputo neanche bigotto, sì. Però quello che ho sentito ieri sera ha raggiunto uno schifo. Aspetta, stai calmo, parla bene che non ti sentiamo, Stefano. Allora quello che voglio dire io, non mi reputo bigotto. Sì, e no, la questo Zanzara l'ho sentito, non... ti piace la Zanzara, non ti reputi bigotto. Quello che hai sentito ieri però sera da parte di chi? Quello che ho sentito ieri da parte di Donato Di Varese, che ha bestemmiato il Papa ieri. Ha bestemmiato. Ha detto che il Papa è quello che è, ha detto lui. Non è un'altra cosa. Tu te la ghignavi anche. Mi fa ridere perché per il modo di dire, ho già detto ieri, a un certo punto l'ho interrotto, che non si possono dire certe cose, ma come non lo si possono dire sul Papa, no. Però in fin dei conti, cioè, poi no, pensandoci, però voglio dire una cosa, più di una volta tu hai condannato gesti o bestemmie che magari sono state dette a caso senza senso. Ma questa non è una bestemmia, non è una bestemmia, per è un'altra. È una bestemmia, vabbè, ma per te è una bestemmia, è una roba schifosa che ha detto una persona incivile. Terra il Papa. No, ma ragazzi, ma cosa vuol dire? Se uno attacca il Papa dandogli del figlio come ha fatto Donato da Varese, se ne assume le sue responsabilità, ma non potete dire che è una bestemmia, è un'altra cosa. Cioè, no, è un'offesa, punto e basta, è un'offesa, è un'altra cosa. Dai, Simone, provincia di Bologna, dai, Simone. Ciao Cruciani, buonasera a tutti. Dimmi. Niente, io volevo solamente dire che secondo me Sgarbi ha ragione. Cioè? In quel 40%, adesso Sgarbi va preso con le pinze, con le dovute attenzioni, però non è peregrino questo discorso. In quel 40% che ha votato sì, ci sono tante persone che attendono una proposta politica di governo, gente non esclusivamente di sinistra, anche, che si aspetta un taglio netto dei ponti con la sinistra radical chic. Vabbè, ma questo è un altro discorso, dai. No? Ma sì, vabbè, d'accordo. Probabilmente Renzi ancora è uno che se si presentasse da solo avrebbe più preferenze o più voti di tante altri. Ma sono tutte cose virtuali, ragazzi. Sono tutte cose virtuali. Alla fine, chi se ne frega? Beh. C'era una cosa da decidere. Renzi ha vinto o no il referendum? Ha perso. E ha perso politicamente in maniera rovinosa, perché adesso se lo stanno inchiappettando anche dentro il partito. Questo è il punto. Per inchiappettarlo ci vuole e vediamo, buona. vediamo. Potrebbe avere una sponda che un vabbè, ma chi se ne frega? Aspetta. Gianfranco da Sassari, vai. Gianfranco, vai. Ciao. Sì. Io odio il politichese, tutte queste cose. Potrebbe ricevere una sponda, quello potrebbe appoggiare, non mi interessa. Beh, no, ma non è politichese in realtà, perché sì, mi pare che anche da queste telefonate emerga che gente consapevole dice: ma come fai ad andare a votare con due leggi elettorali diverse? Vabbè, ma questo, ma sì, ma non è vero, nemmeno questo, Gianfranco da Sassari. Ma non è vero, neanche un governo. Non è vero, nemmeno questo è vero. Gianfranco da Sassari, dai. Pronto, mi senti? Vai, dimmi, Gianfranco, dimmi. Volevo chiedere una cosa a Parenzo. Sì. Eccomi qua, caro Gianfranco. Che l'altro giorno stava tanto dando per fare quei ragazzi che avevano. Non l'ho capita, mi scusi. Non si capisce, no? Gianfranco, o parli bene oppure. Non l'ho capita. Oppure ti chiudo in maniera abbastanza repentina. Oh, allora. Dimmi, Gianfranco, dimmi. Con calma, dimmi. Volevo dire che Parenzo, sì. Che ieri o l'altro ieri, sì. Era talmente. Era contento grazie al fatto che. Contento questi... di chi? No, non era contento. Dica con parole sue. Lo dica con... qui è la radio, quindi i silenzi. Bisogna parlare, bisogna esprimersi. Io capisco, Gianfranco, per carità, non la voglio mettere in difficoltà. No, se lei ha qualche difficoltà di dizione, no, è una cosa comprensibile. Con me o no, innanzitutto. Gianfranco? Assolutamente. Sì, sono qui. È d'accordo con me o no? Che lui era talmente contento del fatto che questi. No, ma partiamo dai presupposti. No, ma questo aspetta, è contento di che cosa? Non ho capito di che cosa era contento Parenzo. Del fatto che vengono date queste case ai marocchini, ai marocchini. No, a persone che ne avevano diritto. Vabbè, Gianfranco, allora? Perfetto. Allora vorrei chiedere a Parenzo come mai nel suo paese. Sì, dov'è il suo paese? Qual è il suo paese? L'Italia? No, il suo paese mi pare che lui sia ebreo, no? Sì, ma che c'entra? Uno è ebreo, ma può essere cittadino tedesco, cittadino spagnolo o cittadino americano. D'accordo, comunque. Come d'accordo? Beh, no, ma questo è questo è fondamentale, perché sennò altrimenti uno pensa che tutti quelli ebrei debbano andare in Israele, cosa che non sarebbe possibile per una questione anche pratica. No, non voglio dire quello. Vabbè, che vuoi dire? Che gli israeliani invece cacciano la gente? No, che cacciano la gente. Gli israeliani si sono messi in un territorio che non è loro. Vabbè, Gianfranco, questione vecchia. Ciao, Sara da Udine, ciao. Ciao, buonasera, volevo chiedere anche io due cose a Parenzo e l'argomento non era molto lontano. Cioè, che cosa? Io... Come? No, dimmi Sara, dimmi, cara. dai, dimmi. Perfetto, allora, niente, io ascolto spesso France 24 in inglese perché non so il francese. Vabbè, allora? E sento parlare continuamente o nelle news o nei servizi delle grosse difficoltà che hanno gli ebrei in Francia, che hanno subiscono atti di antisemitismo. Allora, cosa c'entra questo con la zanzara, scusi, Sara? Volevo chiedere a Parenzo, infatti non volevo parlare. Ma non è un'analisi questa non è volevo l'analisi geopolitica del mondo. Volevo fare una domanda. Domanda personale la faccio. Ma non dipende, se gliela faccio fare bene, altrimenti no, decido io. Non è se no non datemi la linea, che cazzo. E niente, volevo chiedere a Parenzo se per caso non aveva sentito questa cosa e se non ha paura che la stessa cosa, gli stessi atti possono accadere di antisemitismo. Sara, per questo è l'esperto risponde di altre trasmissioni. A noi non ce ne frega nulla. Arrivederci, grazie. Ciao. A Cruciani, ma non è che stai andando a versare a demenza senile? La zanzara. Vediamo se Sgarbone risponde. Vediamo se Sgarbone risponde. No, perché a un certo punto sei incazzato anche con Barbacetto del fatto su Dell'Utri, per questa frase di Barbacetto. Adesso non prendiamo ancora la linea, Barbacetto su Dell'Utri. Senti che cosa ha detto. E tra l'altro a votare sì, per esempio a Milano, sono stati, è stato il centro quello che votava Forza Italia e che eleggeva senatore Marcello Dell'Utri, ecco, quello lì, quelli lì hanno votato sì, quindi per Matteo Renzi. Mentre invece... Questa mi permetto di dire a Barbacetto che è una cazzata, perché al centro di Milano hanno votato anche per Sala, sindaco, è una puttanata, cioè una puttanata. Comunque, vediamo un po' se prendiamo la linea con Sgarbone. Pronto? Eccoci, eccoci qua. Qua, Vittorio. Allora, oggi ti ho visto che litigavi a un certo punto, volevi litigare con Barbacetto. Perché? Che è successo con questo giornalista del Fatto? A un certo punto dice no, perché sì, l'hanno votato quelli da Milano Centro come Dell'Utri. Ma volevo dirgli, Prodi ha votato sì, l'Emilia Romagna ha votato sì, il Trentino Alto Adige ha votato sì, la Toscana ha votato sì, Cuferlo ha votato sì. Non tirare fuori i poveretti che sono in carcere, che non votano, per tirare fuori sempre quello che fa schifo di questa gente. Barbacetto fa schifo, perché no, tirano sempre fuori l'ombra del sospetto. L'ombra di Dell'Utri, aspetta, parla per meglio. Dell'Utri poi sia colpevole, per modo di dire, perché ha fatto qualche cena forse, ma mi devi dire, Barbacetto, cosa ha fatto? Chi ha favorito? È in galera ingiustamente, perché manca il corpo del reato. E non lo dico io, l'ha detto la stessa Cassazione quando ha cercato... Vabbè, tu, a te ti fa schifo che cosa? Che cos'è Barbacetto per te? Perché ti fa schifo? Perché Barbacetto ti... mi sembrava anche bene, tanto quelle calzette da ginocchio, c'è cioè una cosa proprio... Quelle calzette, scusa? Ma che dici? No, ma proprio da finocchio, nel senso la parola che non si usa più. Le calzette da finocchio? Sì, questa mania di vedere sempre le cose dal punto di vista dell'insinuazione e del sospetto, di dar fuori Dell'Utri per il referendum. Sì, non c'entra un cazzo, non c'entra un cazzo. È una vigliaccata di un uomo che si deve vergognare. Non gliel'ho detto perché la povera conduttrice aveva la Lanzulli che stava a rompere il cazzo sul fatto. Poi dico, chi vota sì? Sì. Vota sì con Falonieri, vota sì Marina Berlusconi, vota sì per questa se la menava dicendo no, noi siamo per il no, per il no, per il ma no. Ma perché te la sei presa? Perché te la sei presa con la Ronzulli? Perché lei si è messa a dire che il 40% non era di Renzi, è di Verdini. Ma gli hai detto che non capisce un cazzo, non però. Non capisce un cazzo di politica, che era la, come dicono le fonti e i libri, si occupava di oggettine. No, si occupava di quello. Ex deputato europeo. Il deputato europeo ha detto le oggettine, pagato con i soldi del Parlamento europeo per fare la cameriera di Berlusconi con le oggettine. Io c'ero, voi non c'eravate, io c'ero. Ma non è solo questo. Ma non è vero, è stata una bravissima deputata europea, tra l'altro con grande presenze, peraltro. Prova a aprire Google. Vabbè, che c'entra, non è che è la fonte ufficiale. Era, e dice Google, la maîtresse delle oggettine. Ora, non me ne frega niente perché oggi ho pettegolezzi. Però tu dici che non capisci un cazzo di politica. Non capisci niente, perché non mi puoi dire che Berlusconi è interamente per il no. Poi non ha capito, né lei né Barbacetto, io dico, siamo tutti d'accordo che si deve andare a votare. Si deve votare col proporzionale? Ammettiamo? Sì. Con maggioritario no. Allora Berlusconi prenderà l'8%, il 10%, vede il vincitore che sarà Renzi e si allea con lui. Sì, questo sì. Ho detto io. Quello vuole Berlusconi, certo. Non si può dire no, perché no, perché no. Certo, in questo governo non deve entrare né Renzi né Berlusconi, ma se vanno al proporzionale, qualcuno sì. Primi alleati. Posso dirlo? No, perché lei sa quello che non sa, perché non sa un cazzo di politica. Sì. Allora le alleanze possibili sono Renzi e Berlusconi. Basta, posso dirlo, non si riesce. Senti, ma invece l'oggettina non rompe i coglioni, no? Stabilisci dove devono dormire. Faceva quella che amministrava il condominio. Tu sai che ho difeso sempre Berlusconi. Certo. Non ho niente contro le oggettine, ma non mi rompere i coglioni, se io faccio un ragionamento, ascoltalo, impara. Però mettili insieme. Fai il governo Lega 5 Stelle. Andate a fare in culo. Barbacetto è un vigliacco che ha uno che è in carcere meno colpevole di lui tira fuori il suo nome. Ma per dire come meno colpevole di lui? Associazione esterna? Lui è colpevole di un sacco di bugie dette apposta per non si capisce quale parte politica. Ma in nome ma quello per mafia, quello è in galera per mafia. No, non è in galera per mafia, è un corso esterno che non esiste. Ma corso non esterno è definitiva, però non esiste quel reato. Non esiste. Non c'è, però. È un'invenzione giuridica. Cosa ha fatto? È in galera per conto di Berlusconi, dai, è chiaro. Perché non è in galera Berlusconi, caro parente? Dai, è in galera per conto di Berlusconi. Dai, questo per conto di Berlusconi, che non hanno messo in galera avendo le stesse responsabilità. Allora tu non puoi mettere in galera uno per un reato che è incontri, parole. Senti, un'altra cosa, Vittorio. Infatti, mi ha fatto ricorso alla Corte Europea di Giustizia. Caro Barbacetto, caro Barbacetto, o caro Parenti, Vittorio, tu insinui, sì, tiri fuori il referendum e dell'Utri, sì, che hanno votato dell'Utri, il buco nel culo, quelli che hanno votato per Sala, si vergogni Barbacetto, quel finocchietto di Barbacetto, ma perché devi dire rotto in culo? Vabbè, adesso rotto in culo. Ma perché bisogna dire lo sembra? Lo sembra. Anche Parenzo, però. Ma non è un insulto, però. È spuntato. Deve diffamare così il povero Barbacetto. C'è no, uscito. Che diffamare. Ma che diffama lui? Dimmi cosa c'entra. No, ma Prodi ha votato come Dell'Utri. Cominciamo a dirlo. Concorso esterno di Prodi con Dell'Utri. Ma vaffanculo. Ma poi che c'entra? Che c'entra Dell'Utri? Ma di questo non c'è intervista sul Corriere che è in carcere come un poveretto. Se muore in carcere, Barbacetto in galera. In galera. Senti una cosa, senti una cosa, però c'è, a proposito di omosessuali, è uscita fuori la notizia che alcuni, un omosessuale ha ottenuto diritto d'asilo in Italia in quanto omosessuale proveniente da non so dove. Io sono, faccio anche il partito degli omosessuali adesso. Perché? Io mi piacciono anche loro, non c'ho niente contro gli omosessuali, basta che non si sposi. Cioè l'omosessuale in sé, il mio assistente per esempio, notoriamente, Macellani, è omosessuale. Il mio assistente lo mette nel culo vulpio, fa di tutto, è un maiale, Macellani. Però dico, non voglio che si sposino, come non voglio che si sposi un uomo con una donna. Ma posso dirlo? No, siete per il matrimonio, andate a fare in culo. Se il matrimonio è un crimine contro l'umanità. Sì, no, ma tu ti sei, hai detto, hai detto pure che l'assistenza, la pensione, tutte puttanate. Sì, quello lì ho detto, se ti sposi per l'assistenza va a far culo. Io come cioè due di 70 anni, due uomini e due donne che si sposano. Ci sposiamo così abbiamo una pensione di reversibilità quando lui muore. Ma va a far culo. Sposiamo perché così quando vado all'ospedale, io sono stato all'ospedale, venivano tutti quelli che volevano. Venivano uomini, maschi. Ma sì, quella, l'ospedale è una minchiata, dai. L'ospedale, su. No, l'ospedale mi accompagna il mio bicchetto. Ma vaffanculo, vaffanculo, inculatevi e siate felici. Non senti, sperate. Comunque c'è gente che mi ha detto non può dire certe cose Sgarbi quando incita a non pagare le tasse. Come fa a dire certe cose quando incita a non pagare le tasse? C'è uno stipendio a Verdini e alla Ronzulli. Non voglio pagare neanche una lira per ho capito, ma uno come fa a dire non voglio pagare una lira, voglio pagare solo le tasse quando mi dicono mettiamo a posto quella strada dove tu vivi, bene. Basta, avete rotto il cazzo, non voglio pagare una lira. Ho capito, ma uno non può dire. Ma non se può... tutti facessero così. Agli ospedali, quando sei andato in ospedale a farti curare, è un ospedale pubblico, soldi pubblici, sì. Soldi pubblici. Ma soldi pubblici va benissimo, infatti, se mi dici per gli ospedali sono pronto a pagare, ma non pago il 60%. Io voglio vivere come Parenzo, che vive in nero, io lo so benissimo. Ma non è vero? Parenzo vive in nero. E siccome non sono razzista, sono per ma questa è una diffamazione assoluta. Parenzo vive in nero. Ma quale nero? Ho pagato un sacco di tasse, io. Ma vuol dire che non ami i neri tu? Tu ami neri o no? Tu ami neri, no, io, io. Ognuno sa il suo nero. Ho pagato, tutto è ricevuto e ritenuto da tutto. Ma tu ami i neri, tu ami i neri. Ciao, ciao Vittorio, ciao, ciao, ragazzi, ciao Vittorio. Ciao, sempre, sempre. Cruciani, Parenzo, voi siete pazzi, pazzi, pazzi, ma sempre al top. La Zanzara. Allora l'altra notte durante una scopata epica abbiamo tenuto come sottofondo la Zanzara. Oh ragazzi, vi giuro, dopo un po' sembrava che ci foste anche voi lì in camera. Mamma mia, incredibile. Beh, sono belle cose quelle che accadono nelle stanze degli italiani, caro Parenzo, in particolare degli ascoltatori della Zanzara. Sono veramente belle cose, cioè noi facciamo praticamente da sottofondo musicale a tanti copulamenti, a tante unioni, a tanti innamoramenti, chiamali come vuoi, hai no, visto? No, ma questo mi fa anche un po' schifo, francamente. No, cioè... ma ho usato termini anche moderati, hai visto? Ho usato termini accettabili anche dal tuo punto di vista. Qual è il problema se sentendo la tua voce o la mia voce le persone fanno all'amore? No, non è questo il problema sono i contenuti della trasmissione, i miserabili che chiamano, cioè il momento del far l'amore è un momento talmente intimo, bello, sì, intenso, sì, che sì. Andrebbe accompagnato con delle, ad esempio, delle musiche, delle canzoni. Ma non ho capito perché, se uno vuole sentire la Zanzara non va bene, non ho capito. Tu respingi tutti quelli che vogliono sentire questa trasmissione, sei incredibile, scusa. Può sembrare incontro trenda, visto che ci siamo esatto, lì, esatto. Però, sì, può sembrare, ho detto, incontro no, è incontro. Aspetta, che si svuotano più, Versa il vino un attimo, versa il vino. Il mezzo bicchiere di vino, adesso lo riempiamo. Versa un altro, dai, versa un altro. Il fuoco. Mezzo goccetto di vino. Il fuoco per fortuna continua a scoppiettare. Sì. E questo mezzo sigaro che avevo in bocca è stato gradevolissimo perché si sposa bene. È un sigaro non aromatizzato, non come i tuoi aromati all'anice. No, no, io veramente sempre. È un mezzo toscanello pulitissimo. Sì. E questo vino rosso Chianti, Gallo Nero, non dirò la cantina perché sennò mi accusano di fare pubblicità. Sì, anche perché poi ti manderebbero due, tre. Sì, e io non voglio, io voglio pagare tutto fino all'ultimo cent euro. Su questo si può discutere. Ecco, la bellezza di questo, perché l'inverno, io vorrei dire questo agli ascoltatori di Zanzara, pensate anche al bello, cioè c'è anche un bello delle cose. Il bello delle cose. Certo, bisogna avere, bisogna avere i quattrini per no, ma chi dice? Perché quattrini? Beh, un caminetto un po' che caminetto, sigaro, vino, vino rosso, il tempo di avere. Ma che c'è gente che soffre, gente a San Basilio. I sapori dell'inverno, le castagne. Il vino rosso, il e questa rumore. È una vergogna! È una vergogna! Librandi, Librandi contro questo Gasparri. Qui, cosa urlo? Librandi contro Gasparri, senti. Ma questa cronaca di un degrado italiano che voi state documentando giorno dopo giorno. Non è vero, da nord sono al sud. Tutte balle, non c'è vabbè, nessun sono tutte degrado. Balle. No, qua, Librandi, io quando vado in giro, il PIL io quando vado in giro, Librandi, invece ma sì, rispettoso. Quando c'eravate voi, no? Librandi, sì, rispettoso. Il PIL andava giù. Io una richiesta che per ho tutti i giorni, noi, avete due insieme ma spegnete il microfono. Gasparri, poi gli allora. Do la parola. Io quando vado in giro, una delle cose che mi dice la gente è come fate a sopportare i brandi? Io dico che noi prendiamo più consenso perché non esiste gente quello come che lui mi dicono di e lei, che poi siamo che a distanza. È una mummia che è lì da 30 anni a benissimo. Farsi mantenere. Almeno allora, io c'ho un è lavoro, uno di quelli capito? Che vuole riempire Gasparri, l'Italia di migranti. Guardate, stare tranquilli questa sera. Una delle ragioni per cui il partito Pillola, che insieme ai eletti Pillola, inventati da Monti, continua insieme a Renzi invece voi a degradare l'Italia, il partito è quello che noi, state noi, vedendo. Noi, il partito Pillola, non vi abbiamo state fatto vincere. Di quello che comunque, è il partito io Pillola, dico, non Pillola, anche uno che si poco. Sai dove abbiamo messo la Pillola, allora, Gasparri? Diciamo... Il grande combattente Librandi contro uno che stava in una piazza, le solite piazze di dalla vostra parte. Signora Saputella, quali lo so sono? Quali sono i criteri, ma no, sto dicendo che di case popolari mancano. Saputella! Sì, ma Saputella! Ma fai l'educato! Sì, fai l'educato cosa? Prima di tutto! Saputello sei tu che parli a camera! Ascolti, fai l'educato! Fai l'educato! Lascia il nome nostro! E non mi fermare! Poi a un certo punto Gasparri dice anche che è giusto che fanno bene a occupare le case. Cioè, incredibile però, questa, Mauri. Ma che sei impazzito? Sei tu, sei la destra. Perché non siano migranti. Senti, senti questa cosa. Presidente, è pazzesco. Quando uno vede che il governo italiano ospita clandestini con queste spese, con queste cooperative che ci mangiano sopra, con cosa? Questa insicurezza, ma te li mandiamo la casa tua e va bene a occupare le case. Quando poi c'è gente come Librandi che offende i cittadini, no, quello è un sostenitore di Renzi e del PD. Avete capito perché Renzi ha perso il tu referendum? Tu non hai fatto niente. Perché no, questi Renzi sostenitori l'ha vinto il referendum. Che tra l'altro clandestini in Italia e che se ne fregano di cittadini italiani. Offendono i cittadini. Scusate. Comunque tutte le sere così, con Belpietro che dice scusate, state zitti, eccetera. Allora lei Librandi, lei Gasparri, stupendo. Come si è rotto anche il cazzo, signor Belpietro, eh? Omar da Torino, vai Omar. Omar. Cruciani, ciao. Dimmi Omar. Senti, dimmi. Io sono 18 anni che vivo in Italia. Sì. Allora? Di Casablanca, sono del Marocco. Allora, adesso arrivo al punto. Ma tu sei che marocchino? Ma... Marocchino? Sì, sono marocchino. Sì. Sono 18 anni. Passaporto? Passaporto marocchino? Passaporto italiano. Passaporto bene, italiano. Sei italiano, beh, qual è il problema? Anni, sono... sì. No, vivo sei... amici dappertutto, non sei mi sono mai irregolare? Sentito. Sei clandestino, regolare, irregolare? No, regolare, mai avuto bene. Un piccolo problema. Però ottimo, che vuoi da me allora? I coglioni sì? Che ogni volta tu quando parli di immigrati tiri in ballo tutto un paese. Ma qual cazzo, è? Tutto un paese quale? Africani, i marocchini. Ma chi l'ha detto? I marocchini, perché quella Omar, quella di San Basilio era una famiglia di marocchini, che c'entra? Sì, ho capito, ma adesso stavi parlando con un ascoltatore e dice perché sono i marocchini, cioè, immigrati ci sono 50 vabbè, paesi. Ma ho capito, lo so benissimo, adesso che vuoi da me? 50 paesi. Ma che ti sei Omar si è sentito offeso. Si è sentito offeso Omar. Il marocchino Omar si è sentito offeso. Il marocchino, scusami. No, italiano anche Omar, per dire, per capirci, no? Per intendere. Per dire, il marocchino, perché il marocchino? Vabbè, marocchino, perché che cos'è? Italiano è marocchino. È il passaporto italiano. È anche italiano, va benissimo. Noi siamo un paese aperto che Ma no, aperto, chiamalo Omar, è una Omar, persona. Omar. Ma certo, Omar, però il lui marocchino, ma è lui, io dovrei chiamare lo stronzo Donato da Varese. No, ma è lui che mette in rilievo, si offende in quanto marocchino. Dunque gli dico il marocchino Omar, è lui stesso che si offende in quanto marocchino, perché ho detto i marocchini. Si dice marocchini per intendere gli extracomunitari, quelli che vengono qui, Omar. Una volta si diceva così, no? Ci sono afghani, ci sono pakistani, ci sono siriani. Ci lo sappiamo, non c'è bisogno che ci fai. Ma cosa lo sappiamo? Non c'è bisogno che ci fai la lezione, professore. Professore, non c'è bisogno che ci fai la lezione. Adesso la lezione, lo sappiamo che ci sono tante nazionalità, Omar. Ma che ne sai? Quanti paesi, quanti stati ci sono in Asia? Ma che ne so, quanti stati ci sono di numero? Ma che vuol dire? Cose. È arrivato il professore. Omar da Torino. Omar da Torino. Dai, parliamo in francese. Dai, parliamo in francese. Avanti. Ma che vuoi da me? Aspetta, che ti sento male, Omar. Ti sento male. Mi senti male. Ecco, adesso ti sento meglio. Allora, cosa vuoi da me? Spiegami. Cosa vuoi da me? Specifica le nazioni. Sì, famo la lezione di geografia qua. Ci mettiamo a fare la lezione di geografia. Non le sai neanche. Ma chi entra oggi in Italia degli immigrati? Non solo sono i marocchini, siriani, afghani. Lo sappiamo. Vabbè, vuoi fare l'offeso? Fai l'offeso. Enzo da Bari, vai. Scherzo, ma mi sono offeso. Vabbè, Omar, ciao. Enzo da Bari, vai, Enzo. Pronto? Dimmi, Enzo. Senti, solo una cosa volevo dirti. Ma tu credi di essere il detentore della verità? No, assolutamente no. No. Perché basta che un ascoltatore non sia d'accordo con te, tu li chiudi il telefono. No, veramente no. Sto parlando con te. Sei un razzista, ascoltami! Sei un razzista di merda e ti mando a far culo io. Ma tu puoi mandarmi a fare il culo quanto vuoi, ma non sei. Ah, bravo, Enzo da Bari. Richiamatemi questo cretino, dai. Ottavio da Barletta, sempre Puglia, vai. Ottavio. Pronto? Sì, Ottavio, dimmi. Ciao. Senti, dopo parliamo del tuo fare approssimativo e generalizzante proprio dalla tua vita, però volevo dire solo ma una chi? Cosa parecchio. Chi? Cosa parliamo, no, di cosa? Di che stai parlando? Ma puoi parlare di cosa? Di cosa vuoi parlare? Di Parenzo. Allora... Bene, ciao Parenzo. Senti, ciao caro. Intanto non capisci nulla sui vini. Non esiste un vino non profumato. Intanto si dice aromatico. Non capisci nulla. Dice aromatico. Vabbè, non ce ne frega niente dei vini, Ottavio. Allora cosa vuoi dirmi? Due. Non si sente. Giancarlo da Verona, vai. Giancarlo. Dimmi. Pronto? Giancarlo. Sì, dimmi. Pronto? Eccolo. Luciani? Sì, dimmi Giancarlo, dimmi. Ascolta un po', perché ce l'hai su? Perché non vuoi che il Veneto diventi... che si possa mettere da solo, che faccia la cosa... Se vuoi andare da solo? Sei a favore dell'indipendenza del Veneto? Sì. Oh mamma! Oh, va benissimo, se vuoi il Veneto indipendente, battiti. Ascolta, per l'indipendenza... Ma secondo te vuoi perdere tempo con quei quattro stupidi che ti stanno chiamando, quelli lì di marocchini, di... Ma che cazzo stai lì? Rompiti i coglioni, non dovresti neanche risponderli. Ma perché? Come li consideri i marocchini tu? Beh, li considero persone come tutti gli altri, però a me mi fanno un po' pietà, mi fanno un po' schifo, quello che vabbè, ti dico. Come tutti gli altri, però ti fanno schifo. Interessante questa cosa. Ti fanno schifo i marocchini, cioè gli extracomunitari, sì, ti fanno schifo, diciamola tutta. Sì, sì. Cioè, sì, fosse sì, per te nel Veneto, sì, nel Veneto indipendente non ci sarebbe nessuno straniero. No, nessuno... No. E noi no, romani, per esempio? No, ma cosa c'entra quello? No, per dire, noi romani ci possiamo stare nel Veneto indipendente o no? Sì, certo che ci puoi stare. E allora? Sì, io sono su. Io ho avuto a che fare con i marocchini, ho lavorato con i marocchini. Scusami. E allora? Dammi retta un attimo, scusami. Parlate in Veneto, va. Pronto? Sì, pronto, dimmi. Parenzo, no, dimmi. Le volevo dire questo, vai Mona, se te che hai 5 minuti, vai Mona. Quando che con tempo che va, quando che vive problemi. Ecco, bravo, vai Mona più e più volte, perché mi pare che te che hai la testa macchiata. Ascolta, Parenzo, sono mio come tizio, poi... il fieno di cervello. Calmi. Perché il fieno, anzi, in Veneto si direbbe te che è scorese del cervello. Come le tue. Capito? Purtroppo sei pieno? La realtà è che sei imbottito di vino tu, Giancarlo, sei completamente sbronzo, hai bevuto questo, come un pazzo, come no? Tu vai subito a offendere le persone. Ma perché? Bere mica è un delitto. Perché non è vero, perché non è vero. Se fosse vero avresti anche ragione, ma non è vero. Però allora è ancora più grave, perché vuol dire che non c'è alcuna lucidità. La libertà della parola, lo si può dire o no? Giancarlo, tu vuoi il Veneto indipendente? Voglio il bene? Il Veneto indipendente, questo è embriaco. Veneto indipendente. Cioè indipendente dall'Italia, perché l'Italia che cos'è? Uno stato oppressore? No. Ascolta un pochettino. Niente, questo è embriaco. Una regione indipendente. Questo è embriaco. Ci dobbiamo arrangiare, non dobbiamo avere bisogno della Roma capitale, quello che vuoi chiamarla. Hai capito? Perché ci hanno rotto i coglioni, ci hanno mangiato di tutto, ma ci stanno sfruttando. Vabbè, passiamo al argomento. Giancarlo, e i Rom? E i Rom? Che vogliamo fare dei Rom? Beh, i Rom, non lo so, fai quello che vuoi dei Rom, quello che me ne frega. I Rom, che fai? Che facciamo con i Rom, con i campi Rom? Non lo so, mandali, non lo so. Dove? Che ne so io, mandali dove vuoi i Rom, i Rom non mi rompo. Vabbè, i Rom, posso darmi il fastidio come sì, come no, hai capito? Ma è i marocchini. I marocchini ti danno fastidio. Perché sono falsi. Falsi, marocchini. Ma perché proprio i marocchini? Adesso ti faccio parlare. Vuoi parlare con Omar o no? Col signor Omar. Il marocchino Omar. No, Giancarlo, vuoi parlare con Omar o no? Ma voglio parlare con... Ma passami anche a Omar, che problemi c'è? Signor Omar. Omar. Signor Omar. Ma perché? Cosa ti fa ridere il nome Omar? Omar dal Marocco, che si incazza perché chiamava i marocchini. Giancarlo... A me fa ridere il nome Donato, ad esempio, da Varese. Ma no, non fa ridere. Non ho capito perché Omar, devi dirlo così. Non lo so, perché Omar che si incazza. Come Carabue. Cosa c'è da male chiamarsi Carabue? Allora, chi è? Omar, ci sei o no? Omar. Eccomi, ho sentito, mi sto divertendo. Allora, questo Giancarlo da Verona dice che tu sei... Giancarlo, diglielo in faccia. So, Giancarlo, diglielo in faccia. Sentito. Io dico sì, in faccia, cosa sa fare qua in Italia che non lo vogliono nessuno? Che se ne va nel suo paese, no? Lo sta bene. Giancarlo, scusa, Giancarlo, perché ce l'hai con tutta una nazione? Cosa ti hanno fatto? Ma perché forse sono stato trattato male. Quello ci sta, lo posso allora anche capire. Mi è rimasto un po' attaccato, hai capito? Bravo, Giancarlo, ti dico una cosa, io sono 18 anni qua, ho tanti amici, ho una moglie italiana, una figlia, rispetto tutti, rispetto le regole, pagato le tasse, mai fatto un giorno di malattia, mai fatto lavoro dirigente. Non come gli assenteisti italiani dei comuni oggi. Azienda italiana che ha creduto in me, che mi ha... Giancarlo, perché te la prendi con questo, Giancarlo? Perché? Ma io non me la prendo come, io me la sto prendendo. Hai detto che ti fanno schifo i marocchini. Perché sono stato trattato male. Vabbè, tu sei embriaco. Giancarlo, mi spiace. Allora, Giancarlo, vabbè, quando una persona mi tratta male, io non sono una persona cattiva. Fermo, Omar, non mi rompere i coglioni. Aspetta, fermo, comando io. Giancarlo, sei ubriaco. La realtà è che sei ubriaco. Ma perché vuoi insistere che sono ubriaco? Sei ubriaco, fradicio. Ma tu sei tutto cretino, porca pazienza. Ciao. Io sono un seguace dello zanzaresimo. Siamo veramente al top qua. La zanzara. Ho fatto l'albero di Natale ascoltando la zanzara, puntata di probabilmente ieri, non so neanche quando, e adesso nella testa ho solamente i nani. Li avete visti? I nani. Canta i nani. No, non li canta i nani. E dai, canta i nani. Oh, Cruciani, domani c'ho un colloquio a Francoforte per un posto come post dottorato all'università di Francoforte, ma in testa c'è una sola cosa: i nani. Ieri sera, veglia del defunto, nel bel mezzo di un'Ave Maria, si sente un cellulare. I nani, i nani, i nani, i nani. Imbarazzo generale. Siamo al top. Il contagio è iniziato, Cruciani. Cruciani, ti odiamo, sei la nostra rovina. Una volta quando uscivamo, cominciavamo a parlare di spread, ci interessavamo delle riforme, ragionavamo intorno alle conseguenze politiche di una possibile dimissione del governo Renzi, ci saremmo preoccupati di quale poteva essere l'alternativa del Rio. Ora quando usciamo la sera non ce ne frega più un cazzo. L'unica cosa che ci interessa è una. Irani, Irani, Irani, Irani, Irani, Irani, Irani, Irani. I nostri intellettuali si chiamano Richard Benson e Alberico Lemme. Ciao Saviano, ciao. Cruciani, buonasera. Non credo tu abbia capito bene il problema. La consulta, come stabilito dalla Costituzione... Oddio, un nano! Ed ora Donald Traffico. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. Appena arrivati in Italia abbiamo casa, macchine, fighe. Yeah, io non faccio operaio. Non faccio operaio, io non faccio operaio. Non faccio operaio, yeah, io non faccio operaio. Non faccio operaio, non faccio operaio. Non faccio operaio. Non mi sporco le mani, perché sono già nero. Sono un profugo. Profugo. È stato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia. Quindi io ho portato tutti i miei amici con la barca. Anche Matteo Renzi ha detto che è casa nostra. Quindi tutti i miei amici, tutti i miei amici, votiamo tutti Pidio, Pidio, dai cao, votiamo. Ragazzi, questa canzone credo che non abbia fatto troppo bene al Partito Democratico, caro Parenzo. No, ma eh? Che gli frega, maestro Parenzo. Il signor Bello Figo, già. Ma in realtà Bello Figo è figo nel senso che è intelligente, perché si è preso gioco di tutti, ha sbeffeggiato tutti, ha usato i luoghi comuni di questa trasmissione che mi pare si chiami dalla vostra parte, che è la parte della gente, allora, e li ha ribaltati, quindi è una persona intelligente, anzi andrebbe... Allora, un grande nemico di Bello Figo è un altro che ha la pelle scurissima, è stato militante pure di Casa Pound, Parenzo è stato pure con Salvini oppure ancora nella Lega, non lo so, non è importante, e si chiama Paolo Diop. Paolo buonasera, Diop. Ciao Cruciani. Ciao. Ma Paolo. Non è arrestato questo qui già? Ma perché dovrebbe aver arrestato? Perché stava in Casa Pound, non ho capito. No, non lo so, per incitamento all'odio, non lo so. Qualche ma perché? Reato, è nero. È nero. Ho scoperto che a Parenzo piacciono i neri poco fa da Sgarbi. Cioè, per fortuna non gli piacciono i neri di destra, grazie a Dio. Ecco qua la battuta classica omofoba di un uomo di destra, un grande classico. No, ma non sono assolutamente omofobo. Intanto buonasera. Io buonasera. Le voglio ricordare questo. Sono, diciamo, sì, un amante dell'altra azienda, cioè delle femmine. Scusami Paolo, io non ho capito una cosa. Innanzitutto tu ti dichiari fascista. Tu sei nero proprio come un tizio d'inferno. Cioè sei negro. Sono questa... negro. Sei negro. Originario di dove? Deriva del Senegal. Del Senegal? Sei italiano? Sono italianista. Ma oggi dove stai? Salvini, con Salvini, con la destra estrema, con chi stai Paolo? Oggi sono un libero pensatore. Ma che vuol dire libero pensatore? Sono un uomo di destra che ha delle ideologie di destra. Sei fascista, tu hai detto più volte sono fascista. Sì, sono fascista, mi identifico in un'ideologia di destra, molto, cioè, di destra. Cioè ci vorrebbe il Duce in Italia o no? Ma il Duce purtroppo non c'è più. Purtroppo, capito Parenzo, purtroppo. Quanti anni hai ma tu? Ma non mi stupisce per nulla, perché c'è sempre, quello non è il suo caso, non voglio offenderlo, ma c'è sempre l'utile idiota dappertutto. No, gli hai dato dell'idiota, gli hai dato dell'idiota. No, ho detto utile, cioè dico, c'è sempre, ma lo abbraccio forte dialetticamente, dico c'è sempre l'utile idiota, nel senso che è evidente che il nero di estrema destra che si proclama fascista serve alla causa dei fascisti, quindi è evidente che come quando ma... tu... Quando si volevo trova... farti una domanda, signor Parenzo, ma mi dica, camerata. Sai chi erano gli Ascari? Assolutamente sì. Ok. Allora loro... erano i collaboratori dei fascisti, in pratica. Beh, collaboratori, esatto. Credo che il fascismo... Io lo usavo come insulto, infatti, cioè, anche. Non ho capito, yes. Paolo, ma ci vorrebbe di nuovo l'uomo forte in Italia? Assolutamente, soprattutto oggi. No, ma fagli dire degli ascari, faglielo dire. Ma chi se ne frega, allora, dai, tu. Allora, in Italia oggi ci vuole erano dei mercenari forte, non come Renzi, grazie a Dio ce lo siamo tolti, tra virgolette, per dai coglioni, dalle palle. Dalle palle, sì. Ok, sì. Grazie a Dio. Adesso purtroppo ci vuole l'uomo forte. Ci vuole l'uomo forte. Ci vuole un uomo forte che rimetta le regole. Cioè, tu, per esempio, tutti i clandestini li cacceresti tutti? No, non tu. Allora, io sono d'accordo nel far entrare chi è veramente bisognoso. Ma che vuol dire bisognoso? Che vuol dire bisognoso? Chi veramente fugge da guerra e fame. E gli altri tutti via. Gli altri tutti via. Ma non arrivano in Italia gente che... Beh, ha già detto fame, ad esempio. Quindi comprendi anche i migranti economici, vedi? La fame? No, io non comprendo i migranti economici. Io dico fame per fame vera. Parente, ma sei stato mai in Africa? Cioè, in che Africa c'è il benessere? Stati... In alcuni stati c'è il benessere. Sono stato in alcuni stati del Nord Africa. Del Nord Africa, quindi non sei stato mai nell'Africa Nera, quindi non conosci le dinamiche che ci sono. No, nell'Africa Nera non però, sono mai scusa, stato. Dio, io vorrei dire una cosa: perché lasciamo perdere l'Africa? Perché ti sta sui coglioni bello figo? Spiegami. Bello figo perché prende in giro gli italiani e non credo che non si debba permettere di prendere in giro gli italiani, soprattutto in questa situazione. Io sono marchigiano, sono delle Marche dove abbiamo subito un terremoto. Cioè, come lo definisci? Un coglione, un deficiente? Come lo... È un coglione, un deficiente, è un cioccolatino con la maionese sulla testa. Io lo chiamo così. Ma che vuol dire cioccolatino con la maionese sulla testa? Scusa. Cosa significa? Che è un coglione, perché in un momento critico dove c'è stato un terremoto in Italia, dove le famiglie non arrivano a fine mese, dove le persone faticano a trovare lavoro, e questo dobbiamo anche subire oltre la beffa di non avere un governo eletto allora? Dagli italiani, anche la beffa di un coglione che ci canta le cose che sono reali. Ma sono ho capito, ma scusa un attimo, amico mio, questo le qua consiglio lei ha fatto ricorda. I soldi, faccio, tu che mestiere fai, Diop? Io lavoro per un'azienda, per una ho capito, ma questo qua ha fatto i soldi, sei impiegato, che sei? Sì, sono impiegato. Questo sono qua ha fatto un po' di soldi, 30.000 euro in tutto, facendo queste canzoni qua, facendo il rapper e pigliando per il culo è tutte... È questa la cosa triste, è questa. Oh, ma ognuno potrà fare il cazzo che vuole, dai, su. Non si può dare spazio a una persona del genere. Non si può dare spazio, e che sei diventato, mo? Non si può, perché in Italia c'è gente che non arriva a fine mese. Allora io sono arrabbiatissimo col programma dalla vostra parte che tu vuoi che ti invitano, questa è la realtà, vuoi che ti invitano dalla vostra parte, questo guardi, è... ora come ora io ci andrei tranquillamente, ma ah beh, ma certo ma per parlare di problemi reali, non di queste poi tu devi parlare dei problemi reali mentre gli altri non possono cantare canzoni, dai, canzoni che insultano gli italiani, ma sì, le donne, canzone, sì, se tu hai ascoltato bene, si insultano le donne bianche. Fosse stato il contrario, oggi saremmo a uno scontro epocale dove la Boldrini e tutti i vabbè, ma dice un po' di parole, sarebbero qui a urlare al razzismo. Senti, è un genio, allora, è un genio. Rispetto si dà e si... non mi chiami Eugenio, mi no, chiamo Paolo Dio. No, ma un genio è cosa? È l'altro, amico mio. Cioè, è un genio, no? Eugenio. Non cioè... è un genio. Un genio, se voi definite un genio una persona che ma fa sì, è geniale, a modo suo è geniale. Contro questo popolo, contro i tuoi stessi cittadini, perché io non credo che gli italiani non vadano presi per il culo. Ma non c'entra niente la presa per il culo, dai, no, canta delle canzoni. Che canzoni sono? E vabbè, dei piccoli rap sono? Prendendo per il culo gli italiani sì, gli italiani ma non solo per il culo gli italiani. Ma lui è italiano. Parte che è italiano. Avete un dettaglio che non... Ripeto, io sono nelle Marche, abbiamo subito un terremoto, ho visto con i miei occhi persone che non hanno più ma perché non ti metti a ridere? Ma perché non ti metti a ridere di fronte a queste cose? Cioè, rido per non piangere, posso ridere per non piangere, perché questa è la situazione, dare spazio a un personaggio. Ma che dare spazio, Paolo, dai, su, ma smettila, dai, ma chi se ne frega? Tanto so che tu la pensi come me. Assolutamente no, assolutamente no. Ma certo, sì, ma assolutamente come no. Si può andare dietro a un rapper che canta, rapper poi questa è una parola grossa perché per me i rapper sono altri, che canta canzoni contro un popolo che in questo momento ma che contro un popolo, dai. Comunque lei si ricordi, caro, si beffa di un intero popolo, quello italiano. Ma che, fermo lì, fermo, scusi, fermo, caro, fermo. Aspetta un attimo, fermo, fermo lì. Siamo al top. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. A Natale fai battere il cuore. Regala Stroili. 40% di sconto su gioielli in oro e diamanti. La Zanzara. Matteo Renzi. Matteo Renzi. Matteo Renzi. Figo Renzi. Matteo Renzi. Matteo Renzi. Matteo Renzi. Figo Renzi. Ragazzi, dai, è inutile, questo qua è un genio, dai, Diop, è inutile che protesti, questo è un genio. Guardi, vorrei dai, su, Diop, tu sei negro, negro senegalese, questo qua è tuo fratello, questo che canta è tuo fratello. Guarda, ho fratelli bianchi, ho fratelli neri, la mia fratellanza si stringe con l'intelligenza, però volevo farti una domanda. Dimmi, dimmi. C'è una parte che incita allo stupro. Cioè, no, ma sì, ma quale stupro? Ma quale? In un'altra canzone vecchia, sì, lo so, una canzone. Allora. Cioè, dovrebbe essere, secondo lei andrebbe arrestato, perché... arrestato Bello Figo. Arrestiamo Bello Figo per incitamento allo stupro. Va fermato, va bloccato. Va bloccato. Senti, ti canto una filastrocca, ti canto. Ma incita allo stupro, è una cosa grave. Ma non lo so se incita allo stupro, non credo, dai, su. Ma io ti dico. Senti, sì, Diop. Fai il vago. Senti, Diop, guarda che filastrocchina di Natale che ho per te. Il migrante vien di notte, no, con le scarpe tutte rotte. Ripeto perché Parenzo mi ha interrotto. Il migrante vien di notte con le... Ah, ridai, aspetta, fammela dire bene. Il migrante vien di notte con le scarpe... Dai. Non mi fa schifo sta roba. È una canzoncina che ho ricevuto, la filastrocca. Fammela... fa schifo, vabbè, fammela... mi fa schifo, voglio che si sappia che mi fa schifo. Ok, l'abbiamo saputo. L'abbiamo... un comunista, si sa. Allora, il... vabbè, che c'entra? Cose... Allora, senti, senti, Paolo, il migrante... offensiva. Oddio, mi fai finire... Il migrante, io sono lunedì a Lampedusa. Oh, lo sappiamo! Oh, non ci do per i coglioni. Parenzo è il classico comunista che non fa parlare gli altri. Il migrante vien di notte con le scarpe tutte rotte, vien dall'Africa in barcone a rubarvi la pensione. Nell'hotel la vita è bella, nel frattempo ti accoltella. Poi verrà forse arrestato e l'indomani rilasciato. Paolo... com'è, Paolo? È vergognoso. Allora, io ti dico che non tutti i migranti... Ah, ma a me non mi fa il discorso così. Com'è sta filastrocca? È uno schifo. Sì, bravo, meno male, va? Il migrante vien di notte con le... No, è divertente, è divertente. È diventato nero dall'imbarazzo. Allora, il migrante vien di notte... Aspetta, fermi. Ma lo so, stai zitto meno un attimo. Meno male che suscita questi sentimenti anche a Casa Pound. Ma ragazzi, me l'hanno mandata e oggettivamente... in questo momento non sono in Casa Pound. Il migrante vien di notte con le scarpe tutte rotte, vien dall'Africa in barcone a rubarvi la pensione. Nell'hotel la vita è bella, nel frattempo ti accoltella, poi verrà forse arrestato e l'indomani rilasciato. Carlo da Brescia, vai Carlo. Ciao Cruciani. Dimmi. Guarda, io ti chiamo per un motivo semplice, dimmi. È possibile che tu mi tenga lì il venerdì sera a quest'ora Nicole ferma ad ascoltare queste stronzate che state dicendo. Non ho capito. Dovete liberare le vostre centrali miste e mandarle in giro per l'Italia a rendere felici noi che il venerdì sera si diverte. Tu sei un coglione. Sai che sei un coglione, sì, sai che sei un coglione. Stronzate di te che sei un coglione, lo sai, sì. Li prendi per il culo, sei il re degli ignoranti. Sai che sei un deficiente, sì. Cruciani. Bravo. Bravo. Cruciani. Vaffanculo. Bravo Carlo, bravissimi, geni. Richiamami un po' questi strozzi, sono ancora in linea? Ma non sono male questi strozzi. Carlo, richiamami un po'. Ti amiamo. Pensa che Carlo, fermo, Carlo. Dimmi, sei semplicemente un imbecille, tu e gli altri che siete insieme a lui. Gianluca dalla provincia di Cremona. Gianluca. Oh, ciao, buonasera a tutti, ciao Cruciato. Allora, la cosa al volo. Allora, innanzitutto, abbiamo fatto questo referendum, abbiamo votato tutti quanti di no. Sì, calma, devi stare calmo. Allora, abbiamo votato tutti di no. Tutti no, vabbè. La 60% parte. Ha votato no, allora? Okay. 70%. Allora, mo, mi spieghi per quale cazzo di motivo ce lo devo rimettere un'altra volta a sto coglione? Ma non, che stai calmo, sembri Faina, quello là che fai i video, Faina, sembri Faina, se conosci il Faina. Allora, ah, sì, vabbè. Ma allora, non lo so, lo decideranno i partiti, non credo che ci sia aria di un Renzi bis, almeno così dicono. Non c'è aria di Renzi bis, anche perché lui stesso si rende conto che non sarebbe possibile. Sarebbe un pazzo se accettasse. Allora? Ah, meno male. E poi un'altra cosa, volevo fare una domanda a Parenzo. Questo sembra fine. Dato che ci tiene così tanto ai nostri clandestini, vabbè, mo non so come cazzo chiamarli, importati, non so, vabbè. Importati. Ma se c'hai due soldi da parte, Parenzo, sì, no? Sì. Comprati un pezzo di tela, te li porti tutti davanti a casa tua, gli dai da magnà, così nessuno più te rompe i coglioni. Beh, questa è un'argomentazione nuova. Oh, ascoltami Parenzo, il discorso è questo: se vogliamo parlare di persone da rispettare, allora ci sto, perché quello che hanno fatto qua la famiglia dei marocchini è sbagliato. Bravo, meno male. No, per carità, quello meno era male. Allora? Nella casa gli aspettava il diritto, era giusto che la piavano. Bravo, perché, meno male, basta, finiamola qui, bravo. No, che finimo qua, aspetta, che però questa Italia deve diventare un tripudio proprio di sozzoni che non un rispettano. Un tripudio? Sì, un tribuglio, quello è tutto questo. E poi un'altra cosa volevo pure dire al signor Diop che c'è stava prima. Quello che ha fatto quella canzone là, quella canzone rap là, con quel ciuffo biondo in testa, sì, quello non è stupido, quello è figlio della mignota. Lo sai perché? Perché gli stupidi sono quelli che gli danno i soldi. Perché quello ognuno li fa come vuole, perché dentro qua in Italia tutti quanti fanno quello che vogliono, capito? E quello, vabbè, Gianlu, ciao, ti saluto. Cosimo, provincia di Cremona, vai. Sempre ciao, provincia. Parezzo, ciao, ma quello non era dalla provincia di Cremona, quello di prima, Gianluca, però. Cosimo, provincia di Cremona, sì, vai. Pronto? Dimmi Cosimo. Dimmi. Sì, ciao dimmi. Cruciani, ciao Parenzo. Vai, dimmi. Niente, io volevo dire che sono d'accordo sul fatto che debbano venire tutti in Italia, tutti, proprio a prescindere, proprio tutti. Ah. E noi dovremmo andare via tutti dall'Italia, ma proprio tutti. Farli venire senso? Tutti, fare proprio una cosa, uno scambio alla pari, così almeno questo diventa un paese di merda, più di merda di quello che è. E noi di là faremo diventare quei paesi molto più industrializzati e migliori di quelli che sono. Sai cosa e mi poi... stupisce? Mi stupisce il fatto che io ogni tanto dico, ma uno più idiota non potrà mai chiamarci ogni giorno... Io ogni giorno dico, forse oggi abbiamo toccato il massimo dell'idiozia. Ogni giorno quando chiudo alle 18:50, alle 20:50, cioè tu consideri Cosimo un imbecille praticamente. No, grazie, totale credo. Totale, Parenzo, assoluto. Grazie, Parenzo. E con i Rom che dobbiamo fare? Con i Rom che facciamo? Hanno aperto una concessionaria della Caterpillar, hanno fatto un nuovo modello di Ruspas, potrebbe comunque dare il patentino a Parenzo e fa insegnargliela a usare, magari davanti a un campetto, per una spianata, un parcheggio, sì. E ma loro... senza ammazzarli, senza fare quelle cose lì, ci mancherebbe, però prenderli magari e posso portarli nelle case come la gente normale, tutto qui, fargli fare delle cose normali, delle persone vabbè, normali. Antonio Perugia, vai, Antonio. Devo semplicemente dire, dopo che ho sentito l'intervento di quel signore che si definisce negro, che è una sua scelta, sì, che l'utile idiota della vostra trasmissione è proprio Parenzo, dato che dà dell'utile idiota agli altri, lui è l'utile idiota della tua trasmissione, Cruciani. E permettimi di dirti che da italiano, come sei anche tu, sì, sei un idiota, stasera sei stato un idiota anche tu. Perché? A non capire perché quel negro, che è italiano o non è italiano non lo so, ma si sta prendendo per il culo a noi italiani. Ma chi? Ma chi? Quello che quel rapper bello figo, sì, ma è italiano quello lì, sarà italiano quello che sia, è italiano, di origine ghanese, italiano sta prendendo per il culo a te, a me, ma ho capito, ma non comprare i suoi dischi, ma non comprare i suoi dischi, non cliccare su YouTube, fai il cazzo che vuoi, ma che ti frega, non li compro. Però quando quel signore che è italiano molto più di quest'altro ti dice, a prescindere dalla sua idea politica, ti dice che è uno stronzo e che ci sta prendendo per il culo, tu non gli devi dare torto. Perché ti dai ma non è che ci sta prendendo per il culo, è uno che è una specie di rapper che ha utilizzato delle frasi utilizzate dai migranti, spesso il wifi, benissimo, l'albergo, esasperandole, e ha fatto un piccolo mestiere con queste cose qua, mi pare un genio. Hai ragione che siamo dei coglioni noi, quelli che ci cliccano sopra, però dire che si prende a te per ti il culo, sta sui coglioni, a te ti sta sui no, coglioni. Mi sta sui coglioni, non mi sta sui coglioni, mi stanno sui coglioni, i coglioni che ci vanno a cliccare sopra. E quando tu dici che non ti offende, ci sta prendendo per il culo a tutti. Ma che offende, dai, ma le offese sono altre, che offende? Non mi frega un cazzo che mi offende, un cioccolatino di merda come quello non mi offende. Cioccolatino di merda. È solo uno stronzo che ci piglia per il culo. Cioccolatino di merda, dai. Cioè, perché... ci piglia per il culo. No, non lo mantiene, non è razzista, italiano, Cruciani. È italiano. Hai detto che è un cioccolatino di merda. Ascoltami, io rispetto di tutti quelli. Ma se hai detto che è un cioccolatino di merda, dai. Sì, benissimo, certo, perché ci prende per il culo. Come lui prende per il culo a noi, stanno, prende per il culo a lui. Ti stanno sui coglioni negri, dai. No, assolutamente, io rispetto tutti. Io sono di destra. E vabbè, questo fa i soldi, fa i soldi anche. Una ragazza in centro a Perugia mi ha detto: ciao compagno, sai che cosa gli ho risposto? Cosa? Mi voleva vendere lotta continua. Ho detto: no, guarda, ti ringrazio, ti rispetto per rispetto le tue idee, tu rispetti le mie, compagno no, perché la penso in maniera diversa. Vabbè. Ci siamo fatti una risata, è finita. Ciao, lì. Io rispetto tutti quelli che. Ciao, non, to, che ciao, ciao, ciao. In conclusione, caro Parenzo, ti offro un altro spaccato di questo paese, ovviamente il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. I nostri ragazzi girano depressi perché non hanno lavoro e sono presi in giro anche con le canzoni dai negri. Bella questa, i nostri ragazzi sono depressi in giro perché non trovano lavoro e sono presi in giro dai negri con le canzoni. Si riferiscono al signor Bello Figo. Ma hai capito i danni fatti dalla vostra parte? Senti, senti, senti questo, senti. Senta, io quella canzonetta che ha messo, buttatela nel cesso per cortesia, mi fa venire il mal di stomaco e mi vengono di quei nervi. Già l'ho sentita in televisione dalla vostra parte. Che veramente era ogni caso la cannera, il mio marito, poi non ne parliamo. Senti questo sui bambini marocchini. La libertà! Noi abbiamo veramente piene le palle, i profughi, i clandestini, gli stranieri devono restare a casa loro, punto e basta. E la gente ne ha piene le palle dei bambini, di tutte le sceneggiate che fanno vedere poverini, figli dei marocchini, gli dobbiamo dare la casa, in poi tornano in ferie in Marocco e casa ne hanno tre e li dobbiamo caricarli nel treno merci e mandarli fuori dai adesso. Caricarli sul treno merci, Parenzo. Caricarli sul treno merci. Tutto questo, ragazzi, accade a Radio Padania. Come una madre e un figlio. Devono essere fermati, rispediti a casa loro a calci nel sedere con la barca. Perché chi dice di scappare con dalle guerre, ammesso che sia vero, non è altro che un vigliacco. Che ci ha reso schiavi. Tutto per la libertà. Poi è intervenuto anche il signor Tony Iwobi, anche questo un negro che sta con la Lega. Della Lega, sì. Perché noi abbiamo sempre detto che quello che sta succedendo in Italia non è l'immigrazione come noi della Lega ne intendiamo. Ed è per questo che sono orgoglioso di essere definito razzista, perché dico la verità. E dobbiamo essere tutti orgogliosi di essere razzista, se questa vuol dire la certo, è vero. E poi, bisogna essere orgogliosi di essere razzisti, poi ce l'hanno anche con noi. Ne avete sentito l'ultima della zanzara? Hanno deciso di intraprendere una crociata per far cacciare Sammy Varin da Radio Padania o per farli cacciare un fracco di soldi. Sì, mi vogliono far querelare o denunciare. Va bene, ok, d'accordo. E cederò il quinto dello stipendio. Hai dato della puttane, delle puttane alla signora Bosca, alla signora Serracchiani? Ricordati, Varin, delle puttane, non la rigirare adesso. Ultima cosa, ragazzi, vi saluto su questo. No, non si può, andare a fare in culo. Ciao! A lunedì, ciao. Non avete capito un cazzo! Non avete capito un cazzo! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh.